我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏歌剧中的序曲和管弦乐，曲目有比才的《卡门》序曲、罗西尼的《意大利女郎》在阿尔及尔序曲、马斯卡尼《乡村骑士》序曲、维尔蒂《命运的力量》序曲、柏辽兹《浮士德的沉沦》中的《匈牙利进行曲》、约翰施特劳斯《蝙蝠》序曲、柴可夫斯基的《奥涅金》中的《波罗乃兹》舞曲。 We'll be right back. 颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏歌剧中的咏叹调，莫扎特的唐璜中的花名册，普西尼的艺术家的生涯中的冰凉的小手，罗西尼的塞维利亚理发师中快给大忙人让路，比才的卡门中的在塞维尔的城墙后面，威尔第茶花女中的永远的爱情，普西尼的图兰朵中今夜无人入睡的。 Catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231,Francia in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1,003, 1,003, 1,003. Ma tra queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse e baronesse,Marchesani, principessi, i bandoni, d'ogni età, d'ogni età, d'ogni età, d'ogni età, d'ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma, In come

Seguidilla, non vivo di me.

Thank you. Yeah. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。